or solo scrivendo una canzone, io dissi vento, vento, portami con te. Oggi però ho mutato la versione e alla canzone dico vola tu per me. Vola, vola, vola, che più del vento tu dovrai volare. Tu le dirai che l'amo alla follia, che lei soltanto lei la vita mia. Vola, vola, vola, e va canzone via per monti e il mare. Vola, vola, vola, finché non trovi lei non ti fermare. Amore mio, per quanto sei lontana, un giorno certo il cuore mio ti incontrerà. E da quel dì nessuna forza umana, nessuno più nel mondo ci dividerà. Vola, vola, vola, che più del vento tu dovrai volare. Vola, vola, vola, dovete già l'amore ad aspettare. Follia, che lei soltanto lei la vita mia. Vola, vola, vola, e va canzone via per monti e il mare. Vola, vola, vola, finché non trovi lei non ti fermare.